sono arrivati svariati cellulari della polizia, carabinieri, moltissima Digos, e stanno abbattendo gli alberi del terrapieno di Via Aldo Moro. Oramai, come dire, c'è i lavori militarizzati. Sì, i lavori si fanno solo in questo modo a Bologna. Protetti dalla, ci sono tantissimi della Digos, saranno decine, e poi 8 cellulari della polizia, più altri 3, 12 cellulari, mi sembra che sia ben contato. Ecco, ma voi avete parlato con loro? Sì, perché avevano chiesto un agronomo, perché gli agronomi che erano venuti avevano segnato alcuni alberi da proteggere, invece stamattina i lavori erano protetti, partiti, loro dicevano di pulizia, partiti con, cioè gli operai possono dei muratori, degli stradini, quindi non hanno competenze in questo settore, e quindi è arrivato l'agronomo e adesso c'è qua, c'è un presidio con tanta gente, c'è tanti cittadini. Molti, e altrettanta polizia. Ma la situazione com'è, tesa? Sì, in questo momento sì. Hanno preso una persona perché nell'attraversamento di Aldo Moro, sì, i poliziotti hanno preso un ragazzo che adesso lo stanno identificando. Proprio lì nel punto dove c'è il ragazzo che stanno identificando, stiamo guardando, siamo qua vigili. Tanti lavori sono fermi in questo momento. Voi avete proposto un'alternativa anche alla pista ciclabile? C'è anche qui l'agronomo che lui dice in effetti ci stava, ma è l'agronomo del comune. Sì, avevamo proposto un'alternativa assieme anche a Lega Ambiente e WWF, perché devono fare una ciclabile. È incomprensibile che una ciclabile non possa scorrere dentro al parco, dove darebbe anche maggior conforto ai ciclisti, maggior sicurezza, perché non si possa costruire una ciclabile dentro un parco, che non è obbligatorio che la ciclabile sia asfaltata. Ci sono tanti modi di farlo in tutto il mondo, visto che chiamiamo consulenti da tutto il mondo per guardare come si fanno. Per cui avevamo fatto anche questa proposta, che ovviamente non ha ricevuto risposta, ma neanche udienza. Lega Ambiente ha provato a contattare l'Orioli e tutti gli assessori competenti, ma non hanno ancora ricevuto neanche risposta, un contatto.